La parola d'ordine è 9999 come 99 posse. Diamo subito la linea a Fergal. Ciao Luca, eccoci qua. Infatti siamo al concerto di 99 posse. Siamo al Parco Archeologico di Ponte Cagnano. Ed è giusto che siamo noi qua per la radio ufficiale per questa sera, perché 99 posti è la nostra frequenza di Salerno, è 99.5. Allora questo evento si intitola Metal Roots ed è il primo grande festival di musica di quest'estate. Questo è un viaggio tra le nuove musiche di tendenza e quelli più vicino alle culture tradizionali dell'etnea mondiali. Perciò stasera vedremo l'anteprima nazionale del 99 posti e il loro primo tappo del tour che li porteranno in giro per l'Italia questo mese. E certo qua è un luogo molto suggestivo, in mezzo alle colline salernitane con qualche tipo sprello volendo sotto gli alberi, molto bello. E infatti è uscito una bella serata alla fine. Però purtroppo siamo un po' indietro col tempo, siccome un pioggia forte ha bloccato la preparazione questo pomeriggio. Infatti fino a poco fa il concerto rischiava di essere rimandato, però meno male adesso tutto è a posto. Infatti adesso, pochi minuti fa, i giovani hanno preso il palco, il primo gruppo stasera, e la folla che hanno raggiunto Ponte Cagnano da tutta Italia stanno vedendo e apprezzando molto questa esibizione. Da poco vediamo pure gli assalti frontali e poi la finale ci sarà il 99 posti, però non è la finale, infatti dopo ci sarà musica per tutte le notte fino alle ore piccole, poi ne parliamo più tardi di quello della musica. Però noi qua vogliamo divertirci, vogliamo godere questa bella serata di musica. Io vi saluto, grazie Luca, da Fuego Cavano per Radio Tour, la radio dei grandi eventi, è tutto. Diretto dalla nostra moving station. Radio Tour in Tour, in diretta dalla nostra moving station. A te la linea, Fergal. Yes, eccomi qua. Yes, alla fine è uscita una bellissima serata, Luca. Siamo benissimo qua. C'è un bel atmosphere qua, infatti. E sottofondo potete sentire i 99 posti, non proprio adesso perché hanno appena finito un brano, però adesso tra poco inizia un altro. Sono già 25 minuti in onda, diciamo, stanno suonando. Da quando noi ci siamo parlati abbiamo già visto i giovani e gli assalti frontali che hanno scaldato la folla molto, e continuano ad arrivare questa folla, e come stanno raccogliendo bene i 99 posti. Prima ho fatto un salto dietro il palco e il gruppo mi hanno raccontato di come sono felice delle prove che hanno fatto a Malghera, a Venezia, e che con questo impianto che vanno proprio bene, e infatti il sound è proprio pulito, io sento benissimo, io quasi capisco tutto nonostante che è napoletano, perfino io, voglio dire. Allora, loro si trovano molto bene al Ponte Cagnano, loro suoneranno fino a mezzanotte, ma la festa non finisce lì. Per la folla che hanno raggiunto il parco archeologico di tutta l'Italia, suoneranno vari DJ italiani e internazionali, compreso i collaboratori di Morciba e Automix dell'Inghilterra. Questo grande evento è il primo dell'estate italiano e ci prepara per il Neapolis Rock Festival a luglio. Ci aspetta un'estate caldo e ricco di musica, e Radio Tour, The Moving Station, ci sarà. Per il momento io vi lascio, io torno a vedere i 99 posti, sento che adesso stanno facendo corte circuito, se non sbaglio, grande. Dopo il governo con Radio Tour, la radio di grandi eventi, è tutto, linea allo studio.